Io sono Marco Balbi, il regista dello spettacolo. Mi sembra, suppongo. Un amico mi ha detto che lei è un ottimo avvocato. Dopo l'avventura con Woody Allen l'anno scorso, siamo risaliti dall'allievo al maestro. Nel senso che Woody Allen ha spesso riconosciuto Groucho Marx come il proprio maestro. Ma non ci siamo già visti da qualche parte? No, me ne godei. A proposito, non avrebbe per caso un sigaro da offrire? Groucho è famosissimo, non c'è uomo al mondo che non conosca la sua maschera. Però non tutti hanno visto i suoi film. I suoi film sono arrivati da noi molto tardi, non tutti. Ben 800 pagine, nemmeno un refuso. La sfido io a trovare un refuso che uno, o anche un principe fuso. Avvocato, lei mi sta facendo girare la testa. Sì, lo so. Speriamo che il nostro spettacolo serva a ristabilire un po' di giusta curiosità nei confronti del prodotto dei fratelli Marx, che è un prodotto generosissimo. Ho creduto giusto fare uno spettacolo popolare, come era la comunità di Groucho, e confezionato in un modo rispettoso del suo tipo specifico di comicità, che è quella del non senso, e del non senso che insegue se stesso. Mia moglie è innamorata di due volte. Sì, lo so già. Non diamo troppo tempo alla gente di pensare a ogni singola battuta. Probabilmente qualcuna se ne perderà anche per raggiungere quella specie di fatica anche che qualche volta si ha nei confronti dei film dei fratelli Marx. Fatica nello stare attenti per ridere e nello stare più attenti per ridere di più. Lei ama la buona musica? Moltissimo! E allora se ne vada, Miss Schatzinger. Ah, Winterthur. Sono Patricia Conti e interpreto in questo spettacolo tre personaggi molto diversi tra loro, tutti e tre molto divertenti, e in una pièce che è assolutamente esilarante. Vogliamo lasciare la compagnia e andare in giardino a farci compagnia? Sono tre donne diversissime. Una si chiama Miss Dumont ed è la segretaria dell'avvocato Marx, in questo caso. Miss Dumont, accompagni questa signora alla porta! E una seconda è una cosiddetta ambasciatrice di un paese che si chiama Fredonia. E il terzo invece è un personaggio molto misterioso che è questa Frau Edna Winterthur. Ma avvocato Pumont è morto. Cosa? Molto cattiva. Ma invece non fa una bella causa alle ferrovie? Allora, io sono Nicola Stravalaci. E... non l'ho ancora presentato. Il mio personaggio però è quello dell'avvocato Marx, che quindi si rifà direttamente al personaggio di Groucho. Si rifà perché comunque noi non abbiamo voluto fare un'imitazione del personaggio, tant'è vero che non ho, a parte il sigaro, diciamo, nulla che rimandi direttamente a lui, non ho i baffoni. Come dice il proverbio? Come dice? Tanto va la gatta all'ardo che bel tempo si spera. Però, appunto, perché non volevamo farne un'imitazione, perché risulta sempre una cosa comunque perdente. Perdente. Che se in qualche modo è indispensabile rifarsi ovviamente a quel tipo di ritmo e il tipo di comicità che portava in scena lui. Non si può personalizzare troppo quel tipo di comicità, insomma bisogna trovare una via di mezzo tra l'imitazione e il fatto di farle in qualche modo proprie, quel tipo di battute. Avvocato, volevo parlare di una cosa delicata, ma non so se posso. Volevo parlare di una cosa delicata. Sono Gianni Quillico, allora. Questo spettacolo per me è un po' una discesa libera, nel senso che io faccio tre personaggi che si alternano, cioè non sono uno, ma un poveretto che viene accusato ingiustamente. Dunque dovrebbe esserci un precedente interessante. Un marito cornuto che chiede allo studio dei fratelli Marx di indagare su sua moglie. Io intendo, ma le causa a mia moglie. E solo per questo secondo lei io dovrei comprare un codice civile. Che pretese, caro lei. E un ambasciatore di uno fantasmagorico regno di Silvania che deve mettersi con un'ambasciatrice per concludere un trattato di pace che logicamente invece sfocerà in una guerra. A 80. C'è da correre molto dietro le quinte, più che in scena, cantiamo anche. E infatti Marco Balbi che regista lo paragona un po' a un allenatore, ma siamo in campionato di calcio, abbiamo addirittura tre porte in scena anziché due come nei campi di calcio, quindi abbiamo voluto proprio esagerare. Stop the train, in case of emergency, just pull down the chain, pull down the chain, penalty for any profit news, I'm found. Chiamatemi Groucho, dunque, della compagnia dei filodrammatici presso l'Accademia di Brera di Milano fino al 1° di luglio. Giusto.